Bene, adesso andiamo. Oggi andiamo un pochino avanti col Vangelo secondo Giovanni, se vi ricordate la volta scorsa, adesso andiamo alle slides di riferimento. Ci siamo fermati, ci siamo lasciati alle nozze di Cana, che è il primo dei sette segni. Adesso recuperiamo le slides, così ci andiamo un attimo a circostanziare. Queste stanno qui, così riprendiamo un pochino le fila del discorso. Allora, si è tutto di qua. E vi ricordate la suddivisione del Vangelo di Giovanni, no? C'è il libro dei segni, il libro dell'ora. Noi abbiamo cominciato la prima parte la volta scorsa, scorro un po' velocemente, ok, del libro dei segni. Abbiamo visto la predicazione del Battista e l'episodio dei primi discepoli, questo già due incontri fa, e poi l'anno scorso, la volta scorsa ci siamo fermati alla nozze di Cana. Oggi andremo avanti, vedremo la purificazione del Tempio e il colloquio con Nicodemo, se Dio vuole. L'ultima testimonianza del Battista, che è un capolavoro, è veramente qualcosa di stupendo, di spettacolare. E forse il colloquio con la Samaritana, però il colloquio con la Samaritana è un argomento abbastanza corposo, quindi che merita forse un incontro a parte. Tanto per risintonizzarsi, rivediamo i segni. Il secondo segno è la guarigione del figlio del funzionario, il terzo la guarigione dell'infermo nella piscina di Bezzeta, intervallato poi dal discorso sull'opera del figlio. Ci sono anche i sette grandi discorsi di Gesù nella prima parte, la moltiplicazione dei pani, Gesù cammina sulle acque, altro grande discorso la sinagoga di Cafarnao, l'episodio dell'adultera, l'altro grande discorso sulla testimonianza che Gesù rende a se stesso, il discorso su Gesù e Abramo, il sesto segno che è il cieco nato, il discorso sul buon pastore e poi la risurrezione di Lazzaro e poi la condanna a morte di Gesù e l'ultimo discorso sulla prossima purificazione. Qui ci siamo fermati una volta scorsa, adesso riandiamo a riprendere i primi tre capitoli. Abbiamo già visto San Giovanni nella sua predicazione, abbiamo visto i primi discepoli, abbiamo visto le nozze di Cana, il primo segno. Adesso riprendiamo, e adesso andremo con la lettura, con la purificazione del Tempio, che è l'episodio immediatamente successivo alla nozze di Cana. Che idea. Dove stai? Ok, sta qui. Andiamo con la Bibbia a schermo intero. Allora, siamo al versetto 12, ok. Siamo dopo le nozze di Cana, adesso cominceremo a leggere. Dice: dopo questo fatto, siamo qui, vedete bene? Qui. Discese a Cafarnao insieme con la madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono là solo pochi giorni. E si avvicinava la Pasqua dei Giudei, Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombi, e i cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. I discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e io in tre giorni vi farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. E il capitolo secondo poi conclude con questa notazione, questa è proprio tipica di San Giovanni, che ci fa comprendere anche il peculiare rapporto che San Giovanni aveva con Gesù, perché San Giovanni era il prediletto di Gesù, il discepolo prediletto. Gesù ha avuto dei rapporti di intimità e di profonda amicizia con alcune persone, con San Giovanni e anche con il caro Lazzaro. Prendete tranquillamente le sedie, mettete seduti, benvenuti. Allora, mentre a Gerusalemme per la Pasqua, vedete, durante la festa di Pasqua, molti vedendo i segni, vedete il libro dei segni, il termine chiave, questo, vedendo i segni che faceva, semeia in greco, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, e con una notazione particolare, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Queste sono proprio le chicche giovannee, queste sono proprio le... non si trovano negli altri Vangeli queste cose, no? Allora, questo episodio della purificazione del Tempio contiene tanti insegnamenti. Il primo che bisogna tenere presente è che qui Gesù agisce, come dire, come titolare. Voi sapete, ci sono molte persone che, forti di questo episodio, dicono: ah, Gesù ha scacciato i mercanti dal Tempio, quindi quando ce vuoi, ce vuoi. Quindi che si giustificano anche, come dire, dei modi o degli atteggiamenti, diciamo così, forti di zelo. Lo zelo di per sé è una cosa buona, vedete come sta scritto qui, no? Si ricordano che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi dimora. Lo zelo è una cosa buona, ma ordinariamente deve avere delle forme proporzionate. Cioè, Gesù fa questo per due motivi. Nessuno di noi avrebbe potuto fare, io non avrei potuto andare a fare quel marasma, per due motivi. Primo, perché non sono il figlio di Dio fatto uomo, quella non è casa mia, anche se è la casa di Dio. E secondo, perché non me lo potrei permettere. Perché per fare una cosa di quel genere, tu, ci rilasciamo alle guardalumine di questa sera, devi essere irreprensibile. Allora, io ho sempre insegnato che in chiesa non si parla, d'accordo? Ma, per esempio, se io mi mettessi in coscienza davanti a Dio, potrei io dire che io in chiesa non ho mai detto manco mezza parola, se non per stretta necessità, assoluta carità e sempre rigorosamente sotto luce. Quindi quando vedo delle cose che non funzionano, è chiaro che intervengo, ma non prendendo le sferze e le frusti, d'accordo? Si interviene, ecco. Quindi questa è la prima cosa che deve essere un pochino evidenziata, perché ci sono delle cose che Gesù nel Vangelo fa in quanto figlio di Dio e in quanto autorizzato a farlo. Alcuni santi e maestri di spirito l'hanno colta questa cosa. Dice: questo lo fa Gesù, ma perché Gesù se lo può permettere, tu non te lo potresti permettere. Perché agisce con l'autorità divina, quella è casa sua. Questa è la prima cosa. La seconda cosa importante è che è comunque l'onore e il rispetto dovuto alla casa di Dio. Voi, insomma, oggi nelle nostre chiese non c'è chi vende gli agnellini, perché i sacrifici, ce n'è uno solo di sacrificio, quel sacrificio della messa, quindi gli agnellini non servono più. Quindi non servono né i venditori di agnellini e di buoi, né i cambiavalute, che per quelli che non sono ebrei, che per questo sistemano, no? Voi sapete che nel Tempio ci sono dei sacrifici che erano obbligatori, quindi quelli stavano lì a fare un servizio ecclesiale, perché comunque gli ebrei 3 volte l'anno dovevano andare al Tempio. Quando si andava al Tempio si andava sempre a fare un sacrificio, l'hanno fatto anche Gesù, Giuseppe e Maria nell'episodio della presentazione al Tempio, lo vedremo tra un po', la Candelora. Loro hanno offerto il sacrificio dei poveri, una coppia di colombi, perché c'erano i soldi per comprarsi un ariete, proprio detto proprio papale. Ecco, quindi tu dici: ma come? Quindi stavano facendo un servizio di, come dire, agevolazione religiosa. Cioè, se non ti sei portato la pecorella da casa che non c'è il tuo, la compri qui, se non sei un ebreo cambi la valuta, mi dai i sesterzi, io ti do gli shekel e paghi il venditore. Quindi non è che stavano facendo delle cose non autorizzate, non è che c'era il mercatino, quindi erano cose inerenti, ecco, ma fuori, d'accordo? Cioè, quindi anche le cose inerenti fuori, nel senso che, sapete l'insegnamento, questo ricordatelo, ecco, e poi fatelo sempre delicatamente notare quando vi capita, no? Nella casa di Dio si fanno due cose: si parla con Dio o si parla di Dio, il resto non si fa. Io ho letto qualche volta, se volete ve la riprendo, un intervento di Papa Giovanni XXIII, ora santo, insomma, che era un papa, era Papa Francesco, quindi non era certamente un papa alla Benedetto XVI o alla Pio XII che mette paura, che è tutto preciso, capito, tutto quanto. Ma lui, infatti, sono le classiche cose che poi dette da certi personaggi, dici, cioè, salti dalla sedia. In chiesa non dovete salutare nemmeno il papa, d'accordo? Ecco, io all'inizio, mo vi confido un segreto, con voi non lo facevo, perché appena, immaginate, se io appena arrivato, voi tutti gentili entrate in chiesa, buongiorno Don Leonardo, io passo di comunque e faccio così, sarebbe una cosa pessima, d'accordo? Quindi non si può fare. Ecco, però piano piano, tra 2 o 3 anni, se rimango ancora un po', dopo che vi ho detto tante cose, se in chiesa mi dite buongiorno Don Leonardo, io ti dico, ti farò così per farti capire, dico, ancora stiamo a dire buongiorno Don Leonardo, perché ci vuole, capite, una certa gradualità, no? Ma bene, Giovanni XXIII dice, in chiesa non si saluta il Papa, perché il Papa è un po' romo. Di sia lodato e ringraziato ogni momento al Santissimo Sacramento, fai una bella genuflessione davanti al tabernacolo e saluti il Signore. Quindi lo zelo per la casa di Dio, specialmente oggi, deve essere un pochino recuperato, no? Ci sono insomma tante chiese in cui prima e dopo la celebrazione, io non voglio evidentemente, ma io l'ho viste tante volte queste cose qui, c'è veramente il mercato prima e dopo, e qualche volta anche durante, hai visto, no? Cioè, prima, durante e dopo, capite, non si può, come dire, non si può prendere, fare le sferze e randellare le schiene di tutti quanti presenti, no? Però non si può neanche fare finta di niente o pensare che queste siano cose normali o tollerarle. Quindi questo è un insegnamento chiaro. E poi, ecco, c'è anche la relazione che sarebbe stata ripresa da San Paolo, no? Tra il Tempio di Dio e il vero Tempio di Dio, che è il nostro corpo. Dice, distruggete questo Tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. No, questo è un tema tipico del Vangelo di Giovanni, se vi ricordate nell'introduzione ne abbiamo parlato, no? Gesù fa sempre riferimento, invita le persone ad andare oltre, quindi prende un fatto e si sposta sul significato simbolico. Cioè, distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere, quindi sta parlando della sua risurrezione, e loro pensano che stia letteralmente facendo riferimento al Tempio di pietra. Gli rispondono, ma che tanti, che si dice, sono 46, abbiamo messo 46 anni per fare sta cosa, tu, e lo prendono per matto, no? Dice, dopo la sua risurrezione i discepoli si ricordarono e capirono quello che Gesù aveva detto, no? E compreso il senso. Ma qui c'è una relazione, poi San Paolo aveva approfondito questa cosa nelle sue lettere, tra il Tempio di Dio, il Tempio di pietra, e il nostro corpo. Il corpo è il Tempio dello Spirito Santo, avrebbe scritto, e quindi, non so, quindi sia in riferimento all'importanza di non profanarlo con i peccati che particolarmente insozzano il Tempio dello Spirito Santo, che è il corpo, che sono i peccati impuri, ma anche tutta quanta la teologia cristiana del corpo. Guardate che non è vero affatto che i cristiani sono sprezzanti del corpo e pensano che sia soltanto l'anima. Questi sono i platonisti, Platone e i platonisti. Cioè la Chiesa ha sempre insegnato la dignità del corpo umano, soltanto che la dignità del corpo umano, ma il corpo umano deve essere trattato santamente. Capite? Quindi ci sono alcune cose, chi fuma come un turco, chi beve, chi diventa obeso in maniera, come dire, stratosferica, nel senso che maltratta il proprio corpo, espone il proprio corpo quindi alla propria degenerazione, a volte anche al rischio che campi meno del dovuto, non fa una cosa buona. La Chiesa non ha mai, per esempio, raccomandato, neanche dopo la morte, di fare la cremazione, mai. Anzi, i cimiteri se li sono inventati i cristiani proprio per una forma di rispetto, di fede nei confronti del corpo, che il corpo di un cristiano al momento della morte si addormenta in attesa della risurrezione, quindi viene incensato e custodito, perché il corpo è stato abitazione dell'anima e tempio dello Spirito Santo, per cui deve essere degno di riverenza e di rispetto anche dopo la morte. Questo si dica tra noi, tanto per dire, ma se voi andate a Pompei, ci siamo stati già una volta quando tutti andati insieme, no? Avete visto che i cimiteri romani com'erano? Erano cofanetti dove consegnavano le urne cinerarie. Dopo 2000 anni, dopo che abbiamo fatto le catacombe, siamo stati pure a Santa Cristina tutti insieme, abbiamo visto dove erano seppelliti, ci stanno ancora quelli sopra lì di 1700 anni fa là dentro, no? E dopo che abbiamo civilizzato anche, adesso regrediamo, perché c'è un sacco di gente che si va a cremare. E io, è uscito un documento, voi sapete, della Chiesa quando c'era ancora Müller, la Congregazione Dottrina della Fede, controfirmato da Papa Francesco evidentemente, dove dice attenzione, dice sì, è vero che oggi la Chiesa deve fare funerale, ma non è che, non ha mai raccomandato di fare una cosa del genere, questa cosa è una cosa consentita, purché tu non lo faccia in spregio del dogma della risurrezione, e ha anche proibito tutta una serie di cose, che non mi sono successe, non vi dico dove, ma durante il mio ministero sacerdotale, un giorno benedico una casa X, e a un certo punto dice, beh, adesso vi metto la casa, adesso però lei mi deve benedire una cosa. Io dico che cosa? Se no, ma venga un attimo con me, che sta a me porta in una sala, dice, c'era una bella urna lì dentro, dice, queste sono le ceneri di mio marito, me le deve benedire. Io ero, dico, come la c'è Dio? Comincio a pensare, ma si può fare, ma a me questa mi sembra una cosa strana. Non mi manco ricordo che cosa ho fatto, ma nel documento sta scritto che quelle cose, portarsi le ceneri a casa, oppure c'è gente che si fa le medagliette, che si fa i ciondolini, e ci mette la cenere dentro, queste sono proprio le classiche cose da esauriti del nostro tempo, no? da gente da social, da tatuaggio, insomma cose del genere, mi metto pure le ceneri vicino, come se il morto mi stesse vicino attraverso le ceneri, tutte tante cose bizzarre, diciamo così, no? Che con la fede divina e cattolica e anche con la nostra santa visione della corporeità proprio non c'hanno proprio niente a che fare. Assolutamente niente a che fare, e dobbiamo tutti quanti essere purtroppo un pochino rieducati, quindi c'è questa relazione, quindi capito, cioè, il nostro corpo dovrebbe essere tenuto in riverenza tanto quanto è tenuto in riverenza una chiesa tenuta bene, quindi deve essere bello, deve essere pulito, deve essere santo, deve essere completamente offerto al Signore, lontano dai peccati, sapete, i peccati che toccano il corpo sono la lussuria e la gola in senso ampio, non è solo la gola significa anche l'alcol, significa anche la droga, significa anche le canne, significa anche il fumo eccessivo, quanto meno eccessivo, ma ci sono alcuni che dicono queste cose qui, capite? Perché noi non possiamo trattare malamente il nostro corpo, quindi il tempio, domande dopo, il tempio di Dio ha un diretto riferimento con il vero tempio di Dio, perché Dio non abita in un tempio di pietra, l'abitazione di Dio è dentro la nostra anima, e la nostra anima, diceva San Tommaso, è la forma sostanziale del nostro corpo, cioè se ci sarà un tempo, perché ci sarà, come insegna la Chiesa, in cui passiamo attraverso la morte e quindi vivremo in una condizione in cui la nostra anima dal nostro cadavere purtroppo si staccherà, ma noi attendiamo la risurrezione della carne. Capite? Perché il capolavoro della creazione è l'uomo, spirito e corpo. Il Verbo, si è appena uscito dal tempo di Natale, si è fatto carne, quindi, e l'umanità di Gesù sarà unita a lui per tutta l'eternità. Sapete che uno dei motivi per cui il diavolo sta arrabbiato nero è perché il Verbo si è fatto carne, non si è fatto angelo, perché il Verbo poteva pure unirsi ad uno spirito puro e diventare vero Dio e vero angelo. Cioè, dai, pensate, il diavolo è diventato una beffa per questo motivo, perché siccome lui, a differenza di noi, capisce quale onore ci ha dato Dio a diventare un essere, un uomo come noi, è un onore per noi, ma lui lo considera come un disonore per lui. Cioè, ma come? Noi siamo la natura superiore agli esseri umani, noi siamo angeli, siamo angeli, siamo più intelligenti, siamo pure spiriti, e tu devi fare uomo come loro e io me lasci come un frescone. È diventato una bella per questo motivo, capite? Quindi capite anche la formazione, la buona formazione cristiana, cattolica, come ci struttura bene su tutte le cose, no? Oggi ci stanno i pazzi, i maniaci che fanno le diete, le linee, perché se l'estate non mi metto il costumino, non sono così, non si può. I cristiani possono fare anche la stessa identica cosa, nel senso che hanno una cura del corpo, ma non finalizzata alla vanità, ma finalizzata alla santità. D'accordo? Io il corpo l'ho tratto bene perché non so fino a quando nostro Signore Gesù Cristo vuole farmi stare sul pianeta Terra, e lo decide Lui fino a quando ci sto. Perché se io lo tratto malamente, vado a fare una specie di involontario suicidio. D'accordo? E io vi assicuro che nella mia esistenza ho conosciuto più di qualcuno che molto probabilmente potrebbe essere morto prima dell'ora segnata, perché non ha fatto attenzione a custodire santamente il proprio corpo. Ok? Quindi tutti questi insegnamenti sono esplicitamente o implicitamente contenuti in questo brano. Adesso poi c'è un altro spettacolo, che è il discorso tra Gesù e Nicodemo, subito dopo. Questo è un primo profondo discorso. Sapete che Nicodemo, lo leggiamo: c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù, attenzione, di notte, e gli disse: Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Attenzione, questo era uno dei farisei, quindi vuol dire che c'era qualche fariseo buono. I farisei, poveracci, che non è una razza, d'accordo, malefica. Adesso poi ne parleremo un po'. Nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Notate un'altra volta, no? Gesù che va sopra e questo che rimane terra terra. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Ed è una delle frasi stupende di Gesù, questa. Una volta che la sento vengono i brividi a me. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Replicò Nicodemo: come può accadere questo? Egli rispose a Gesù: tu sei maestro in Israele e non sai queste cose. In verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto. Attenzione al verbo plurale che usa Gesù, eh? Ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Bene, questo è un altro piccolo capolavoro, significato, andiamo per gradi di approfondimento, significato globale. Qui Gesù sta parlando del battesimo, evidentemente, la rinascita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Chi ha sentito una delle omelie che ho fatto domenica scorsa, ha avuto un discreto successo tra l'altro, no? Quella della messa delle 10:30, cioè la vita dell'anima è modellata su quella del corpo. Noi nasciamo dal grembo di nostra madre, ma la nostra anima nasce al fonte battesimale per la vita eterna, esattamente quello che Gesù dice: rinascere dall'alto. C'è l'acqua, come le acque che, in cui siamo vissuti nel grembo della nostra mamma, ecco, grazie ad essersi la mamma, l'acqua e la placenta, c'è l'acqua e lo Spirito Santo che tocca la nostra anima e ci rende membri del regno di Dio. Attenzione, qui Gesù usa un periodo ipotetico della impossibilità, si chiama letteralmente. Se uno non nasce d'acqua e da spirito, non può entrare nel regno dei cieli. Attenzione, non sta dicendo se uno non viene battezzato automaticamente va all'inferno? No, sta dicendo che se non si nasce dall'acqua e dallo spirito non si può entrare nel regno di Dio. Quindi, col regno di Dio che cosa significa? Una vita perfettamente conforme a tutto ciò che Dio vuole, al 100%. Infatti la Chiesa insegna questo, cioè noi che siamo battezzati e che cadiamo sotto la parola di Gesù e a chi molto fu dato molto sarà chiesto, noi possiamo diventare santi. Un musulmano che vive la sua fede secondo la sua coscienza rettamente, che non si rende conto e non è capace di riconoscere che Gesù è il figlio di Dio, che quindi non entra a far parte della Chiesa, se vivrà rettamente e santamente seguendo nella sua coscienza quello che Dio gli insegna, che è bene e il male, si dice che può raggiungere l'eterna salvezza sempre per l'opera di mediazione compiuta da Cristo, ma quello santo non ci può diventare. Questo dobbiamo dirlo, questo qui, senza paura di offendere nessuno. Così come un buddista può essere un grande uomo, d'accordo, ma santo non ci può diventare. Non ci può diventare, perché per diventare santo ci vuole lo Spirito Santo, perché santo è chi partecipa della natura divina, chi ha da Dio i suoi stessi attributi, quelle virtù soprannaturali che sono la fede, la speranza e la carità, soprattutto, che chi non è battezzato non ce l'ha. Può essere una bravissima persona e se vive una vita, ripeto, retta, onesta e buona, secondo quel che la coscienza gli detta, sarebbe un'ingiustizia terribile che il nostro Signore gli precludesse la possibilità eterna, capite? C'è dal paradiso, dice, ma io, cioè, che ci posso fare se sono nato in Arabia Saudita con mio nonno, mio padre e mia madre che mi hanno segnato solo questo e non ho conosciuto nient'altro, come dicevano, che capite? Ecco. Però quel poveretto santo, quindi noi dovremmo stare in ginocchio fino a farcele sanguinare le ginocchia per ringraziare della grazia che ci abbiamo avuto, perché noi potremmo veramente fare una vita da gran signori, come si dice, come dire, nel linguaggio comune. Ecco, invece vediamo come siamo ridotti, no? Quando Gesù dice agli ebrei del suo tempo, i pubblicani e i peccatori passano avanti nel regno dei cieli, a volte succede qualche persona che non è proprio tanto di fede e ci dà qualche lezione di vita, purtroppo, disgraziatissimamente, insomma, no? A nostra super vergogna, insomma, perché ecco, quindi questo è il contesto generale, no? Ecco, poi ci stanno delle quindi, e che cosa sta dicendo? Cioè, perché la seconda parte, quindi quando si passa dal discorso privato un po' con Nicodemo, no? Dove Gesù gli spiega questa cosa, Nicodemo che era un fariseo, attenzione, che va da Gesù di notte, tutti quanti i maestri di spirito e dei santi dicono era discepolo, ma di nascosto, per paura, perché capite, perché tra i farisei, noi purtroppo non ci riusciamo a entrare in questa cosa, no? Voi dovete capire che Gesù era proprio un outsider, capite? Cioè, era un fenomeno strano, cioè, purtroppo Gesù l'ha fatta queste cose qui. Allora, Gesù, allora, numero uno, apparteneva alla tribù di Giuda, quindi non apparteneva alla tribù di Levi, quindi non era sacerdote, in senso stretto, per gli ebrei non era sacerdote, era l'eterno, il sommo sacerdote, ma capite, dentro la mentalità giudaica, attenzione, la mentalità giudaica deriva dall'Antico Testamento, capite? Quindi non è che se lo sono inventati. Ecco, non era sacerdote, non aveva titolo per andare in giro a predicare, perché non aveva fatto nessuna scuola rabbinica, capite? Cioè, i farisei o i rabbini, cioè, per poter andare a predicare in pubblico, tu dovevi, come dire, accreditarti, tu chi sei? Chi è il tuo rabbì? Chi è il tuo maestro? Allora ai tempi di Gesù c'erano due grandi rabbini che erano Shammai e Hillel, e Gamaliele, il grande Gamaliele, che è quello che poi si è convertito, insomma, pare alla fine della vita, quel fariseo tutto di un pezzo di cui si parla negli Atti degli Apostoli, che spezzò una parola buona contro gli esaltati farisei, insomma, e contro la persecuzione di San Paolo. E Gamaliele era stato discepolo di Hillel. Hillel è stato un grande rabbino ebreo, veramente un fenomeno, ma Gesù non c'era niente con queste cose qui, capito? Per cui un fariseo, capito? Uno di quelli che sta in alto, che va da questo mezzo, capite? Cioè, ma chi è questo? noi oggi cioè, devo andarci di nascosto, perché sennò quelli stavano tutti gli altri a Bandano Gesù, ma da dove vai? Ma che vai? Dal falegname della Galilea, perché Gesù questo passava. Falegname e della Galilea, capite? La Galilea, cioè il cuore della vita e della fede ebraica, stava a Gerusalemme, stava in Giudea, non stava in Galilea. Quindi Galileo, falegname, non sacerdote e senza nessun titolo. Dio si diverte a faste purtroppo. Lui confonde i sapienti, i disegni dei sapienti e degli intelligenti. Dio lo fa proprio apposta in tante circostanze, capito? Perché proprio vuole che l'uomo abbassi un pochino la crestolina davanti a lui, si umili un po' e si apra ai suoi disegni, alle sue vie che non sono le nostre, no? Allora, nella seconda parte però del discorso è come se Gesù stesse facendo una esplicazione. Dice: nascere dall'occhio allo spirito e entrare nei cieli, che significa? Significa accogliere la salvezza che io vi porto. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Entrare nel regno di Dio, rinascere d'acqua allo spirito o avere la vita eterna sono espressioni che si possono quasi intercambiare. Cioè, noi quando pensiamo alla vita eterna, ed è giusto, no? Pensiamo a paradiso, insomma, quindi all'aldilà. Però vita eterna è concetto che dobbiamo applicare anche all'aldiqua. Ecco. Perché basta che ci ricordiamo un pochino il catechismo. Il peccato grave si chiama peccato mortale. Che significa? Significa che dà la morte alla tua anima. Ma se tu vivi in grazia di Dio, la tua anima, la morte, non la conosce mai. Quindi vive senza morire, quindi vive eternamente. E dalla vita dell'anima dipende il benessere globale della persona. Questo oggi non ci crede quasi nessuno. Però qui bisognerebbe fare gli esperimenti, perché sapete che poi gli esperimenti sono quelli che sono sempre decisivi. Se voi andate su YouTube e vedete le conferenze del professor Antonino Zichichi ha completamente rovinato i darwinisti, ma non è che li ha rovinati perché li insulta o perché ha dimostrato che il darwinismo non è scienza né di primo, né di secondo, né di terzo livello. Adesso non ho tempo di spiegarvi che significa questa cosa. È una ipotesi, una teoria. Ma perché? Perché tu non puoi dimostrarlo in laboratorio, perché se tu potessi prendere uno scimmione e me lo metti dentro una casa e quello scimmione piano piano comincia a umanizzarsi, a diventare sempre meno scimmione, poi ogni tanto comincia pure a dire qualche parolina, allora forse potresti avere... Ma siccome questo non lo puoi dimostrare, e né ci sono gli altri requisiti che ti danno tu non sei, questa è una teoria. Attenzione, vogliamo provare a fare un po' di vita santa e a vedere qualche famiglia dove si fa vita santa? Vogliamo vedere come stanno? Vogliamo vedere come crescono i figli? Questo si può dimostrare come. Cioè, tanti mali anche del nostro tempo, a cui la scienza stessa sì, cerca di arrabattarsi, ma la depressione, la famosa depressione, sì, i psicologi combattono, osano, ci sono alcune forme cliniche, qualche pilloletta ti fa bene, tutto quello che ti pare, ma da che cosa dipende, come si guarisce? Fondamentalmente, tutti quelli che sono onesti hanno un punto interrogativo: il malessere profondo della persona, da cosa dipende? Gesù qui dà una risposta, chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. È chiaro che tu devi fare una vita non, cioè, prenderlo sul serio questo qui. E io personalmente, capite, perché poi la fede cristiana va avanti a testimonianza. La testimonianza che cos'è? È qualche persona che ti dice: tu ci vorrei o ci non credi? Ci vuoi non credere? Io questo l'ho vissuto, io dopo ho visto queste cose, lo racconto sempre nei monasteri di clausura. Io nei monasteri di clausura, quando ero giovane, una mia cara amica, insomma, che entrò in monastero di clausura c'aveva un sacco di soldi, insomma, con un caso, insomma, abbastanza bellissima ragazza, ultra fidanzata, noi uscivamo insieme da fidanzati, insomma, che sta chiappa un giorno entra al monastero di clausura e dice, questa che va a fare il monastero di... cioè, che senso c'ha? Uno, la domanda è se vanno un pochino tutti, no? Allora, tu poi vai lì e te vedi donne di 90 anni che hanno però una pelle come una ragazzina di 20, però hanno 90 anni, insomma, si vede che ce n'hanno 90. Sorridenti, serene, distese, garbate, non so quelle vecchie zitelle che stanno arrabbiate, che te guardano come per dire, ah tu brutto disgraziato, ti sei divertito tutta la vita, io invece sono stato qua a soffrire, te pozzano bene. No, assolutamente, capite? E dici, ma questa che con me che sta così? Cioè, ci sono i famosi punti interrogativi. Quindi la vita eterna non è una cosa che comincia di là, la vita eterna comincia di qua. E quelli che lo vivono, quindi che ci credono, quindi che ci investono, dice, fammi provare, come diceva il buon Blaise Pascal, no? Dice, Pascal ogni tanto scherzava, dice, ma la fede è una scommessa. Ho sentito questa cosa, dice, sarà vero o non sarà vero? Proviamo. E non mi ricordo se lui o qualcun altro diceva, se non fosse vero, io comunque ho campato meglio. Non mi ricordo se era Pascal o se era qualcun altro. Adesso questo non vorrei, ma qualcuno sta cosa l'ha detta, perché se tu provi campi meglio, dice, ho campato meglio in base a un'illusione. E quanti uomini vanno appresso alle frescacce e alle illusioni di tutti quanti i tipi e campano peggio? Se l'illusione mi fa campare meglio, sto parlando chiaramente per iperbole, questo è lungi da me, insomma, andare a pensare che Gesù fosse sia un'illusione, no? Però è così. E attenzione, Gesù qui conclude anche facendo un discorso sulla universalità della salvezza. Dio ha mandato, per quanto riguarda Dio, io sono venuto a essere il Salvatore. Io. A non giudicare, giudicare nel senso forte del termine, cioè a respingere o a mandare all'inferno, per quanto dipende, nessuno. Perché io sono venuto a recuperare, a salvare, questo deve anche essere il nostro modo di rapportarsi verso chiunque. D'accordo? Sempre salvare il salvabile, mai metterci un carico da 90, mai metterci una, come dire, un qualche cosa che vada a far sta peggio la persona, sempre cercare di trarla fuori dai guai. Chi è che non si trae? Chi non crede è già stato condannato, ma non dipende da me, è chi non crede in me, cioè chi non accoglie la salvezza che io gli porto, perché qui compare il credere in Gesù, no? Adesso questo poi lo vedremo. In San Giovanni ci sta soltanto una cosa da fare. Uno solo, credere in Gesù. E c'è soltanto un grande peccato, non credere in Gesù. Questo non significa, come diceva Lutero, che basta che c'è la fede e poi pure se sei delinquente tanto Dio ti perdona per paradiso lo stesso. Questo non è il modo corretto di intendere questa cosa, ma è aprirsi a quello che Gesù ti porta, farlo diventare veramente il Signore della tua vita e con tutte le conseguenze che questo comporta. Se tu fai questo, sta tranquillo, perché quello che Dio vuole, anche questo l'avrebbe ridetto San Paolo, è di portarti in paradiso. Non c'è, capito? Ma te pare che Gesù viene sulla terra, tutto quello che ha fatto, va a morire in croce, perché? Vedete voi, vattene all'inferno, te lo diceva rimanendo in paradiso senza andare a passare tutte quante le pene che passavano, cioè se voleva fa così, che fa? Capite? È una cosa completamente irragionevole. Quindi, per quanto sta in Dio, noi siamo tutti salvi. Per quanto sta in Dio, ma il problema è che così non è per quanto sta in noi. Perché il cristianesimo, prima dicevo il valore della corporeità, ma il cristianesimo è libertà, carità, fraternità, farite le galline, cioè chi ha portato la libertà vera nel mondo, proprio il senso di responsabilizzazione dell'uomo, è il cristianesimo. Perché Dio, se c'è una cosa che non tocca mai, è la nostra libertà, mai. Non la tocca, non la tocca. E la possibilità della dannazione sta proprio in questo, nel fatto che tu liberamente puoi rifiutare anche fino alla fine tutto questo. Capite? La libertà che è conseguenza diretta del fatto che noi siamo immagine e somiglianza di Dio, no? Quindi, chi fa il male... Attenzione, qui non è semplicemente chi fa il male, ma chi fa il male, chi si infogna nel male, chi si, come dire, compromette col male senza volerne uscire fuori, la luce che io gli porto la respinge, non la vuole. Invece, bellissima questa espressione, no? Chi opera la verità viene alla luce. Ci sono due atteggiamenti fondamentali. Una delle cose, insomma, che vi prego, spero che quando tra 100 anni, che la favola di Sermoneta deve finire il più tardi possibile, voi pregate questa qua, quindi pregate che la favola di Sermoneta finisca il più tardi possibile. Però se finirà, ricordate questa cosa qui, cioè questo è proprio un caposaldo veramente fondamentale. Ci sono due categorie di persone, due: le persone chiuse e le persone aperte. Le persone che non vogliono ragionare e le persone che sono aperte a ragionare. Le persone quindi superbe, orgogliose in maniera irragionevole, e le persone, siamo tutti superbi, ma superbi un po', non in maniera proprio estrema, un po'. Ecco, la seconda categoria possono accogliere la grazia. La prima categoria, gli ostinati, fino a quando rimangono così, il famoso peccato contro lo Spirito Santo, tutti hanno paura. Che cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? Sono tutte quante, tutte le forme che ha enucleato la Chiesa, sono delle forme di chiusura radicale all'azione della grazia, sono dei no perentori che tu hai detto a Dio. E dinanzi a quelli Dio si ritira e speriamo che nel tempo qualche cosa cambi. Queste sono le cose che sono veramente da temere. Io ho tanta paura, capite, quando vedo qualche anima messa in questo modo, che è un atteggiamento profondamente stupido, poi, tra l'altro, perché noi tutti facciamo esperienza della nostra limitatezza, della nostra fallacia. Cioè, ma quante volte siamo sbagliati nella vita? Io, se dovessi fare l'elenco tutti gli sbagli che ho fatto nella vita, stiamo qua a parlare fino a dopo domani. Ma anche una montagna fatta in buona fede, magari tante volte pensando che va bene, che uno ha fatto male, ma cioè, capite? Cioè, la cosa più stupida che ci possa esistere, ecco perché il diavolo, che è tanto intelligente, è anche a mio avviso la creatura più stupida che esiste nell'universo. La superbia è proprio la cosa più stupida che possa esistere, perché proprio contrasta con un dato oggettivo. Mio padre diceva sempre, Leonardo diceva sempre così: tu devi stare attento nella vita alle persone, alle schegge impazzite, perché a me nella vita mi ha rovinato, mi hanno fatto passare i guai, non le persone che dicevo, vabbè, questo lo vedo, insomma, che sta un po' così, stiamo attenti, no, ma le persone che sembravano, e che cosa hanno fatto? Hanno preso la, cioè, tu puoi pensare che una persona gli dà una zappa in mano e si prenda zappate i piedi, tu dici, ma questo non lo farà mai, lo hanno fatto. E facendolo mi hanno fatto passare guai pure a me, perché il comportamento, cioè, che capite, super, è irragionevole, è completamente fuori del mondo. Il diavolo combatte una battaglia persa. Io infatti tante volte poi lascio perdere, insomma, perché sono dovuto a capire il diavolo, non ho manco l'importanza di mettermi a pensare, no? Ma dico, ma combatte la battaglia persa. Ma voi la combattereste una battaglia che sicuramente sapete che uno perde? Io non la combatterei. Cioè, se non sapessi qualche speranza di vittoria, ma non la combattono. Il diavolo non può vincere contro Dio, lo sa. Capito? Tutto sto macello che sta a fare adesso in giro, a destra, a sinistra, nella chiesa e nel mondo, va a finire a schifio, dico per lui, dicono in Sicilia, capite? Sicuro, è solo questione di tempo. La Madonna l'ha detto alla fine, vinco io, non vince lui. E quindi ha già vinto, capite? È soltanto questione di tempo. Ma sono grandi misteri, sono. Adesso vediamo adesso l'ultima testimonianza di Giovanni. Questo è proprio perché questo si chiude proprio un ciclo con il capitolo terzo, che è proprio la prima parte del Vangelo, no? Allora, dopo queste cose Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea. Attenzione, là si trattenne con loro e battezzava. Questo è un altro particolare, solo del Vangelo di Giovanni. Ha parlato della rinascita dall'acqua e dallo Spirito, appena adesso. Ha detto che questo significa offrire a tutti la salvezza universale. Ah, e l'esegeta dice, Gesù battezzava. Battezzava. Maestro, il primo battesimo chi l'ha fatto? L'ha fatto San Pietro? Che battesimo dava Gesù secondo voi? Dava quello di Giovanni Battista o dava il battesimo sacramento? O Don Pierpaolo sta celebrando la messa, che lui è canonista, che canonizza tutti quanti per queste cose qui, no? Ecco, capite? Battezzava. Allora, anche Giovanni battezzava Ennon, perché vicino a Salim, oh, estate chi verrà in Terra Santa, ragazzi, una delle cose più belle della Terra Santa è quando si va al fiume Giordano. E lì si rinnovano le promesse battesimali, stanno delle cose stupende nella Terra Santa, ragazzi. Chi può, non se la faccia scappare, specialmente che non c'è stato mai, perché almeno una volta nella vita in Terra Santa bisogna andarci. Io sarò la sesta o la settima volta che ritorno, per me è sempre proprio una gioia immensa. E la gente andava a farsi battezzare. Giovanni infatti non era stato ancora imprigionato. Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo la purificazione. Andarono perciò da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai reso testimonianza, chi è? Colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai reso testimonianza, chi è? Ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui. È Gesù questo qui, no? Dice: oh, c'è la concorrenza, perdi i discepoli. È la verità. Guardate che anche qui, io ricordo sapete, molte cose che vi racconto, voi pensate che sono cose che io ho ricevuto, come dice San Paolo, vi trasmetto quello che ho ricevuto, ricordo gli interventi bellissimi da parte di, non mi ricordo manco chi, sulla grandezza di San Giovanni Battista, anche sulla sua libertà di spirito. Giovanni Battista ha perso un sacco di discepoli, perché se ne andavano da Gesù, ma lui era contento, capite? Non era, questo è anche un ministro di Dio, un prete. Non devi tenere a te le persone. Se trovi un prete che è più bravo di te, ma mandali tutti da là e magari lo trovassi, ti chiamate, io me ne vado tranquillamente dentro qualche eremo, vai tranquillo, capito? Cioè, non devi avere nessun tipo di spirito di proprietà, perché quello che ti interessa di una persona è il bene dell'anima. Che mi importa che viene appresso a me? Anzi, se non viene appresso a me, meglio, capito? Così meno tentazioni, ecco. E se uno è pure un po' egoista, meno lavoro, no? Ecco, capito? Giovanni rispose. Giovanni veramente proprio emerge nella sua: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui. Anche tanti interpreti, tanti esegeti dicevano: se Giovanni avesse detto io sono il Cristo, ci avrebbero creduto tutti, perché tutti pensavano che lo fosse. Tutti. La figura di San Giovanni Battista deve essere di molta meditazione per noi ministri e preti, capite? Quindi di come lui continuamente ha schivato, ecco, il piedistallo, e detto: dovete andare da lui, non da me. E io sì, vi posso dare una mano, il mio compito è portarvi da lui, ma dopodiché dove sta da lui, non da me. Chi possiede la sposa, sta bellissima, è lo sposo. Le anime sono del Signore, non sono dei suoi ministri. Certo, l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Ecco qua, egli deve crescere e io diminuire. Questa roba, se ce lo scrivessimo sul letto, egli deve crescere e io diminuire. Ancora continua. Colui che viene dall'alto e al di sopra di tutti. E questo è Gesù. Ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra, quindi Gesù è Gesù, il resto è il resto. Chi viene dal cielo è di sopra di tutti, egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Quando Gesù dice: se vi ho parlato di cose della terra non credete, ma come crederete se vi parlo delle cose del cielo? È successo là. Sospendiamo adesso, quindi mi fermo un attimo qui, no? Dice: se vi parlo delle cose della terra non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Immaginate quante cose Gesù non ha detto, non ci ha detto. E mano a mano che poi si cresce, diciamo, nella vita di fede, di grazia, sono tante le cose che il Signore dice ai suoi amici e ai suoi servi. E se nessuno ne accetta la sua testimonianza, prima Gesù ha parlato al plurale, noi attestiamo, noi parliamo di ciò che sappiamo. Quindi capite perché c'è Gesù, ma con Gesù c'è sempre con lui il Padre e lo Spirito Santo. Gesù parla al plurale, d'accordo? Perché sì, si è incarnato soltanto il Verbo, si è fatto uomo, ma Padre, Figlio e Spirito Santo sono inseparabili. Quindi Gesù si è incarnato, sì, ma non dobbiamo concepire l'incarnazione, hai visto, no? In cielo ce n'erano tre, uno è venuto sulla terra, ne sono rimasti due, uno stava sulla terra e poi è tornato e sono ritornati tre. Non funziona così, perché in cielo ce n'erano tre, si è incarnato, in cielo ne sono rimasti tre e in terra ne sono scesi tre. Capite? Cioè capite, non si capisce bene, ma è così, ecco, però capite? Perché tutto quello che fanno lo fanno insieme. Chi però ne accetta la testimonianza, versetto 33, certifica che Dio è veritiero. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Le due grandi cose che fa il Signore: la parola e la grazia. Pensate anche alla struttura della Santa Messa. Liturgia della parola, quindi Dio ti parla, liturgia eucaristica, si rinnova il sacrificio della croce e ti viene data la grazia abbondantissima dell'applicazione dei frutti del sacrificio della croce di Gesù e, se puoi, la massima grazia possibile possiamo sulla terra, che fare la comunione. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Vedete, qui si chiude. Ma chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, vedete, ma l'ira di Dio incombe su di lui. Qui l'ira di Dio non bisogna mai concepire. Sapete che tra l'altro in ebraico, nei testi dell'Antico Testamento, quando si parla di ira di Dio, chi conosce l'ebraico, risate quando me ne accorsi, perché quando nell'Antico Testamento si parla dell'ira di Dio, letteralmente c'è scritto il naso di Dio, Af Yahweh, perché quando noi ci arrabbiamo ci diventa il naso rosso, quindi, oppure c'è sta l'immagine del toro che fa, che gli esce il fumo dal naso, quindi c'è questa antropomorfizzazione, diciamo così, di Dio. Non è che Dio si arrabbia, ma quello che sta dicendo è: questo è lo strumento che Dio ha dato per darti tutto, come diceva San Giovanni della Croce, in lui il Padre ci ha detto e ci ha dato tutto. Se tu non lo vuoi, ti chiami fuori, quindi ti escludi dall'opera della salvezza e, come dire, e Dio ti lascia in balia di quello che hai scelto di essere. D'accordo? Ecco, possiamo fermarci qui. Se c'è qualche domanda, adesso possiamo farla. Lontano migliaia di chilometri e vicino al cuore, La Grande Mela e Big Sur, East Coast e West Coast, viaggi on the road e ritmi urbani. Tutto quello che manca all'America sei tu. Prenota ora il tuo volo, trova il prezzo migliore nella tua agenzia di viaggi o visita lufthansa.com. Soggetto a disponibilità. Informati sulle norme d'ingresso in vigore. Tu e gli USA, di nuovo insieme. Say yes to the world. Lufthansa.